Mentre scende ancora il numero di attualmente positivi, sale quello di guariti e dimessi, resta stabile il numero delle vittime intorno alle 300, all'ombra del fatidico 4 maggio riparte lo scontro tra regioni e governo e tra regioni e regioni. Quelle del sud, che da una parte si spingono più avanti, la Calabria intende riaprire bar e ristoranti all'aperto, e dall'altra provano a limitare gli ingressi, la Basilicata vuole imporre quarantena e tampone a chiunque entri. Al nord il Veneto fa un po' da solo, come sempre ha fatto in questo periodo, e i presidenti di centrodestra scrivono al capo dello Stato per lamentare l'eccessivo accentramento dei poteri. La politica pare già in fase 2, dunque, si acuisce lo scontro tra Meloni e Salvini, con la Lega che occupa il Parlamento, si allarga la spaccatura tra Forza Italia e gli alleati, mentre c'è chi continua a pensare a nuove maggioranze. Ieri intanto il via libera all'app per il tracciamento dei contatti con i positivi, tra tanti dubbi ancora, dubbi che tornano ad avvolgere anche la questione congiunti, ai quali da ieri pare aggiungersi la nozione di amico vero. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. Ventiquattro mattino di Simone Spezia. E sempre con i Rolling Stones a introdurci, anche oggi sono le 6:32 minuti di giovedì 30 aprile. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno. Come va oggi, alla vigilia del primo maggio, alla vigilia di questa fase 2 che forse è una fase 1.5, o che forse, viste le decisioni che stanno prendendo le singole regioni, è una fase non si sa. La task force di questa mattina vede Peter Bescapè in regia, Laura Vanossi e Giorgio De Luca in assistenza in redazione. E voi siete la parte più importante della task force di 24 mattino. 349-238-6666 per i vostri messaggi, WhatsApp audio soprattutto, Mandatemi le vostre voci, fatemi sentire come la vedete oggi, come state, cosa pensate, cosa vi aspettate da questo 4 maggio. Allora, da cosa iniziare? Iniziamo più leggeri, va? Più leggeri poi si fa per dire, perché questa nozione di congiunti ancora non ci è chiara. Mentre mi ha scritto questa notte un'ascoltatrice, Giulia, che insomma, alla quale va un abbraccio ovviamente virtuale, perché lei lombarda, il suo fidanzato siciliano, siamo divisi da 1400 km e uno stretto, e quindi il mio congiunto dice chissà quando lo vedrò. Dai Giulia, resisti, dai. Però, dice il viceministro Sileri, ieri ospite in un'altra trasmissione radiofonica, di Un giorno da pecora, nella nozione di congiunto, rientra l'amico vero. Chiaramente è nata poi una polemica, sì, su questo affetto stabile, ma diciamo che sono tutte quelle relazioni che una persona, voglio dire anche un'amicizia, è un affetto stabile. A volte, soprattutto chi si sposta da una città all'altra, stabilisce degli affetti con degli amici che sono spesso migliori di alcuni della famiglia. Bravo viceministro. Diciamoci la verità. Quindi ora, diciamo sia l'amico che il fidanzato? Ma sì, anche perché poi spesso le fidanzate o i fidanzati sono pro tempore, diciamo, certo, la verità. Sì, ma gli amici sono molto più duraturi, ha ragione. Quindi si potrà anche andare a casa di un amico o trovare un amico? Se è considerata, diciamo, un amico vero e non è una scusa, sì. Ve lo immaginate il poliziotto, l'agente della polizia municipale, il carabiniere che ti ferma e dice sto andando da un amico, ma è un amico vero o è solo un conoscente? Va bene, va bene. Allora, giornata di ieri composta di tante cose. La protesta di commercianti e ristoratori che dicono vogliamo aprire prima. Ci sono un po' di condizioni, cioè se manteniamo la sicurezza, se manteniamo una condizione di sicurezza, forse si può fare. Anche chef noti, Vissani per esempio, consegna le chiavi del suo ristorante. Manifestazione Risorgiamo Italia, Baschi, 29 aprile 2020. Consegna delle chiavi. E i sindaci che provano ad intervenire. Dario Nardella, per esempio, sindaco di Firenze, ospite ieri di Barbara D'Urso, dice innanzitutto una moratoria per gli affitti dei locali. Io ho incontrato già molti ristoratori del centro di Firenze, purtroppo anche un centro storico come quello di Firenze è fatto di tanti bar, locali, ristoranti molto piccoli. Esatto. Allora dobbiamo dare subito risposte. Sugli affitti ci vuole una norma che metta d'accordo proprietari e affittuari. In questi mesi in cui sono stati costretti a stare chiusi, bar, ristoranti e locali però hanno dovuto continuare a pagare gli affitti. Quindi ci vuole una moratoria e anche una rinegoziazione degli affitti. Temone questo, temone davvero. Nardella tra l'altro annuncia un provvedimento che è quello di concedere suolo pubblico gratis. Qual è il concetto? Il concetto è che se devi mettere i tavolini fuori per avere più posti disponibili, io ti consento di farlo, di occupare più spazio e te lo do gratis. Secondo, il suolo pubblico. Io come sindaco dal 1 giugno a Firenze darò tutto lo spazio pubblico che ho a disposizione in più gratuito senza pagare il canone del suolo pubblico ai locali per dare una... Bravo! Questa è una bella iniziativa per tutta Italia, bravo! Anche se deve servire Barbara a togliere qualche posto auto, ma sì, dobbiamo fare un sacrificio per aiutare queste aziende. Altri sindaci... Beppe Sala, quello di Milano, che insomma, anche qua i sindaci iniziano a non capir più molto, ma lo dico, non è necessariamente colpa loro, è solamente che la gestione diventa complessa perché per esempio c'è il tema della riapertura dei parchi. Milano li ha chiusi abbastanza presto perché ovviamente la Lombardia era al centro di tutto. E adesso Sala dice li riapriamo, però insomma, se c'è un rischio tocca richiuderli. Come da disposizione del governo, dal 4 di maggio riapriamo parchi e aree verdi. Cercheremo senz'altro di vigilare che non ci siano assembramenti, però oggettivamente sarebbe irrealistico promettere una vera vigilanza e che tutto sia assolutamente nel rispetto delle regole. Quindi io mi appello al vostro buonsenso, alla vostra buona volontà. Noi riapriamo. Se con la riapertura dovessimo vedere elementi di rischio, li richiuderemo, ma è giusto ora riaprire. Mentre il Comune di Roma, che ha un problema di parchi sconfinati e con ampie difficoltà di controllo, dice controlleremo con i droni, vedremo che cosa succederà. Cara Marianna Aprile, come stai? Buongiorno. Buongiorno. Beh, sveglia, già una notizia. Già, cosa ci fai qua a quest'ora? Non ce l'hai un amico, vero? Ma non ce l'hai un amico, sai come si dice? Capiamo cos'è poi di risposto. Senti, allora fase 2 in arrivo, questa fase 2, fase 1 e mezzo, chiamiamola come vogliamo. Mi sembra all'ombra, Marianna, di questioni che si riaprono dal punto di vista politico oltre che istituzionale, no? Un tot di tensioni tra le regioni e il governo, tra le regioni e le regioni, addirittura regioni del sud che vogliono chiudere i confini, la Calabria appunto che vuole riaprire, insomma si stanno muovendo per conto loro perché si aspettavano una scelta più basata sul territorio e invece non gli è arrivata, mi sembra, no? No, ma infatti è stata, diciamo, la conferenza stampa di domenica e in generale l'impostazione non solo del decreto ma anche della sua comunicazione sono state un po' un boomerang, perché è impensabile credere che tutte queste tensioni a cui accennavi, a cui aggiungerei anche quelle tra comuni e regioni, perché non dimentichiamo corrispondenza di amorosi sensi per dire tra Sala e Fontana, tanto per rimanere in Lombardia. Sì. è impensabile che il governo non sapesse cosa stesse covando, e così come è abbastanza incredibile che non abbia tenuto conto del fatto che una stesura pasticciata e una comunicazione confusa non potessero ingenerare nei cittadini che stanno chiusi in casa da un mese e mezzo altrettanta confusione, che per ora si limita alla confusione e alla proposta talvolta folcloristica, talvolta meno, di soluzioni alternative. Voi prima giustamente ricordavate la consegna simbolica, più o meno simbolica, delle chiavi di molti esercenti. Ci sono online i parrucchieri che fanno la roulette russa con i phone per dire vogliamo riaprire. Ci sono però anche tante aziende che stanno proponendo delle soluzioni a loro spese e che vengono per ora taciute. Ci sono le famiglie che hanno cercato di far valere le proprie ragioni di disperazione per l'idea di dover conciliare il ritorno al lavoro dei genitori e la gestione di figli senza le scuole. Quindi è stato un inutile innesco di polemiche e di divisioni in un momento in cui, guarda, lo dice benissimo oggi Zagrebeschi su Repubblica, nessuno è ha intenzione, nessuno dotato di sale in zucca, di ignorare le disposizioni del governo. Sappiamo tutti che è una questione serissima e di unità nazionale. Il punto è: non puoi trattare le libertà personali e le norme oscillando da una concezione del cittadino obbediente a quella del cittadino responsabile. Sì. Sì, allora questo è vero, Marianna. Non sottile, Marianna, sì, è vero. Dall'altra parte, per togliere un po', per così dire, di peso dalle decisioni del governo, di peso politico, questa è una caratteristica italiana abbastanza tipica, è fare delle micronorme, micronormare ogni singola cosa perché si ritiene il cittadino non abbastanza responsabile. Qualcuno mi scriveva, no? È addirittura un portato pre-unitario, cioè da prima dell'unità d'Italia che facciamo questa cosa, e quindi è un po' difficile che ci si scolli da questo schema. Però posso dire, io non sono una oltranzista della difesa del popolo contro le, no, assolutamente no, però io credo che tra tutte le cose eccezionali che abbiamo vissuto in questo mese, in questi due mesi, non va sottovalutata e va tenuta in degna considerazione, perché è una cosa importante proprio alla luce di quelle radici storiche a cui facevi riferimento, sì. Tu, una è la grande capacità di responsabilizzazione dei cittadini e l'obbedienza ha delle norme quando sono chiare, anche se ti limitano nelle cose più profonde del tuo vivere. Noi abbiamo dimostrato di essere capaci di rispettare le regole quando le regole sono chiare e quando ne capiamo la ratio. Sì. Il problema arriva, e lo abbiamo visto in questi giorni, quando le ratio sono poco chiare, l'esposizione è ancora meno chiara e soprattutto il minuto dopo cominciano le marce indietro. Sì. Allora io perché devo obbedire ciecamente e fidarmi di una norma che tu stesso metti in discussione mezz'ora dopo? Vedi le messe, vedi gli asili, vedi la regionalizzazione delle chiusure, vedi i congiunti, gli amici, ma che sai, mi chiedi la data di nascita, il compleanno, per quando mi fermi per strada, per capire se lo conosco davvero, vuoi le foto delle vacanze, cioè qual è il criterio? Un criterio, la allora, chat oggi... WhatsApp, guarda, fammi vedere la chat, no, WhatsApp, ma della dimmi... persona che vai a trovare, vediamo quanto vi scrivete. Lo diceva Gianluca Nicoletti nella trasmissione dell'altro, esatto, giorno, insomma, no? È un po', comunicami, è un po' questo. Cinque indirizzi che da oggi in poi potresti andare a visitare, che corrispondono a cinque persone che tu inserisci nella lista dei tuoi cinque congiunti, parenti, amici, sì, quello che sono, e basta. Se ti trovo dall'altra parte della città ti faccio la multa. Sì, potrebbe essere così, o semplicemente appunto affidarsi alla responsabilità personale, che è anche un punto. Allora, su cosa andare? Andrei sulla parte politica, più puramente politica, Peter Bescapè, e andrei sulla Lega che ieri ha occupato il Parlamento, e forse possiamo sentire un passaggio di quello che è successo al Senato, con presente, se non sbaglio, la Casellati. Sentiamo. Ecco qua, un'occupazione del Parlamento, sia del Senato che della Camera, che insomma viene vissuto con fastidio da Giorgia Meloni, così come Salvini aveva vissuto con fastidio la manifestazione di piazza dell'altro ieri della Meloni. Il tutto mentre Berlusconi si sgancia decisamente dal comparto sovranista del centrodestra. Insomma, ieri avevamo ospite Flavia Perina, Marianna, e le dice un po' la fase 2, è iniziata la fase 2 della politica. Lei mi ha detto: no, secondo me la fase 3 del centrodestra, qua insomma si approfondiscono delle spaccature insomma, tra la fase 3 anche dei 5 Stelle, visto che anche da quelle parti non sono messi benissimo. Cioè, il PD che storicamente ci regalava, diciamo, spettacoli fratricidi, per il momento sotto traccia tiene. Vediamo quanto durerà. Questo è il vero paradosso, no? Cioè, nel momento in cui tutti, dalla politica ai cittadini, abbiamo assunto come fosse il primo vero vaccino il monito di Mattarella all'unità nazionale, tutti, bypassando qualsiasi dubbio e qualsiasi tentativo o tentazione di critica, ci accorgiamo qualche settimana dopo che gli unici a non tenerlo più in degna considerazione sono proprio i partiti, sia quelli di maggioranza sia quelli di opposizione. Ce ne abbiamo se pensate al centrodestra, allora, al suo interno la Lega sappiamo tutti che si sta riassestando alla luce degli scivoloni di Salvini e della prova di da leader che ha compiuto Zaia, no? Cioè, quindi si stanno riassestando là dentro. Fratelli d'Italia si sta rosicchiando quote di consenso della Lega. Il Berlusconi che, diciamo, cerca di serfare tra la giusta presa di distanze dai populismi e il senso di responsabilità nazionale. I 5 Stelle hanno ritenuto che questo fosse il momento giusto per fare le espulsioni all'interno del partito, e comunque si stanno lanciando coltelli per il dopo. Qua il rischio vero, oltre a destabilizzare l'azione di governo, anche se ritengo che, insomma, che Conte non debba temere scossoni a breve, perché sarebbe veramente come buttare l'Italia dalla rupe trappea, cioè è un suicidio collettivo adesso far cadere Conte. Però il fatto di tenerlo così sulla graticola in un momento del genere, per interessi minuscoli di partito, pensando magari non solo alla fase 3 ma alla fase 4, no? Dando tutti per scontato che la fase 3 del paese sia un qualche governone non meglio. La scena dici non è un granché oggettivamente. Ma non è un granché, soprattutto sembra cacofonico in un momento in cui chiedi responsabilità a tutti. Sì, è unità. Traffico. Mattino. Buongiorno ad Achille Variati, sottosegretario all'interno, se non vado errato anche con delega agli enti locali. Variati, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Eccoci qua. Allora, la prima domanda è d'obbligo: è prevedibile che il governo impugni o diffidi la Calabria per questa ordinanza sull'apertura dei ristoranti e dei bar all'aperto? Questo è un momento molto, molto, molto particolare, no? Molto critico. Servirebbe la collaborazione, l'intesa. Qui non si tratta tanto di gerarchia delle regole, però insomma bisogna stare dentro un filo, altrimenti i cittadini non capiscono più niente, non capiscono perché da una parte si può, dall'altra parte non si può. Quindi è probabile che possa esserci una diffida. Senta, Variati. È vero, l'abbiamo fatto anche qua questo ragionamento, che ci sono state tante differenze regionali nella gestione di questa crisi da Covid, e presumibilmente ce ne saranno ancora. È vero anche dall'altra parte che le differenze regionali ci sono nell'incidenza del contagio, nella gestione del contagio, e quindi forse immaginare che le regioni possono avere più margini ci può stare anche sotto questo aspetto. Sì, c'è stata una prima fase della pandemia per la quale era assolutamente necessaria una cornice unitaria nel paese, per certi aspetti nel mondo, no? Perché il cosiddetto modello Italia poi si è diffuso in tanti altri paesi. Quindi serviva una cornice unitaria, ferma, e questo è stato. Ora, in questa seconda fase, io ritengo, il governo ritiene, che il rapporto in particolare con le regioni debba avvenire così. Si dovranno considerare nei territori regionali quei territori che hanno indice di contagio basso, scarsi nuovi positivi, una rete di assistenza adeguata in quella regione, parlo di assistenza sanitaria, la presenza di Covid hospital, alberghi per gli asintomatici, cioè un meccanismo tale che per l'andamento dell'epidemiologia in quella regione, per la presenza delle strutture sanitarie in caso ci fosse un ritorno di epidemia in quel territorio, capace quindi di contenerlo, beh, chi avrà queste caratteristiche sicuramente, tendenzialmente dal 18 di maggio, potrà anche fare effettivamente delle aperture maggiori, anche arrivando ben prima di quel primo di giugno detto dal presidente Conte per quanto riguarda le aperture sub condizione di regole stringenti, di aperture di bar, di aperture anche dei ristoranti. In altri termini, dottore, non è che il governo si diverte a tenere chiuse le persone in casa o le attività stesse chiuse, assolutamente no. Solo uno sciocco può pensare che gli aiuti di Stato possano sostituire realmente il reddito da produzione. Quindi ci sarà questa nuova fase collaborativa tra lo Stato e le regioni. Una cosa non ci possiamo permettere, ma proprio non ce la possiamo permettere: un ritorno di pandemia forte nel paese, perché a quel punto, uno, i cittadini non saprebbero più nemmeno a chi credere e a quali autorità credere; due, non saremmo nelle condizioni di rifare ciò che abbiamo fatto in tutto questo periodo; tre, sarebbe il disastro veramente economico. Aprire e poi richiudere sarebbe sicuramente devastante. Spiego all'ascoltatore: alberghi per asintomatici, che cosa si intende? Molti dei contagi, una parte consistente dell'incremento dei contagi che stiamo vedendo in questo periodo, soprattutto in Lombardia, soprattutto in Piemonte, avviene in famiglia. Cosa succede? Ci sono dei malati di Covid asintomatici che stanno in famiglia e infettano i loro familiari. Allora cosa fai? Prendi questi asintomatici che non hanno bisogno di cure ospedaliere e li metti in alberghi, già succede a Milano, c'è l'hotel Michelangelo se non vado errato, forse ce ne sono altri, e li metti in alberghi in quarantena finché sostanzialmente non gli passa, posto che gli passi presto, perché se vediamo il caso di Paolo Di Bala che è un po' su tutti i giornali oggi, 40 giorni giorni ed è ancora positivo, un caso che colpisce. Senta Variati, per restare al tema enti locali e regioni, e ancora rimanendo sul Mezzogiorno, ci sono altre regioni che stanno pensando a provvedimenti come la Basilicata, che dice chi arriva nella regione da fuori regione deve essere messo in quarantena almeno per 2 settimane e faremo il tampone a chiunque entra. Questo probabilmente scatenando un po' di turismo sanitario, perché ci sono regioni nelle quali il tampone non si riesce a fare, quindi tutti in fuga verso la Basilicata. Il secondo elemento è l'allarme lanciato dal presidente Campano De Luca, che dice insomma occhio, temiamo dal 4 maggio, dal 18 maggio una nuova fuga verso sud. Su questo fronte come vi state muovendo? Responsabilità devono essere le parole che guidano, no? Perché non è esasperazione o rabbia, che pur si comincia a sentire in alcuni settori, soprattutto economici. Esasperazione e rabbia devono essere sostituite da razionalità e responsabilità. Per cui chiaramente il DPCM dice no, per il momento non ci si muove da una regione all'altra, proprio perché all'interno di ciascuna regione il governatore e gli enti locali devono assicurare quelle condizioni di cui parlavo prima, cioè una rete di assistenza adeguata, eccetera. Questo non è in tutto il paese. Quando finirà questa pandemia, e quindi potremmo razionalmente guardare alle cose che hanno funzionato e alle cose che non hanno funzionato, Una riflessione sul sistema sanitario nazionale e sui sistemi sanitari regionali occorrerà farla, sarà necessario farla, perché questo è un paese ancora troppo diseguale tra l'assistenza sanitaria di cui può godere un cittadino di alcune regioni rispetto allora, a tanti. La riflessione sappiamo che è aperta, insomma, e poi la discussione si aprirà sicuramente, variati, però sul concreto di queste ore, la temete la fuga verso sud oppure no da questo 4 maggio, posto che gli spostamenti tra regione e regione sono vietati, però insomma sa com'è, insomma alcune cose non si sono capite fino in fondo. Certo, ti temiamo al punto tale che la norma dice che tu non ti puoi spostare da una regione all'altra liberamente. Li temiamo e penso però che, guardando anche a come sono andati i controlli, sono stati oltre 9 milioni i cittadini italiani che sono stati controllati dall'inizio di questa maledetta avventura. E devo dire che la percentuale dei sanzionati, francamente, è piuttosto bassa, e il numero delle persone finora che non hanno rispettato le regole è francamente confortante. Però ogni giorno che passa qualche indicazione di troppo dei presidenti delle regioni, qualche indicazione di troppo sta portando invece a farle riempire le piazze e le strade. A chi si riferisce? Dobbiamo tenere presente, guardi, c'è un dato, lo voglio dire ai telespettatori, se riesco a trovarlo, che eccolo qui. Noi abbiamo avuto l'apice dei casi attivi, cioè positivi, certificati positivi, meno i morti, meno i guariti. L'apice della curva è stato il 19 aprile, con 108.257 casi in Italia. E da quel momento è iniziata però, la discesa. Dottore, il 29 aprile, quindi 10 giorni dopo, quei 108.000 sono in realtà 104.000, cioè la curva certo che ha cominciato a scendere, ma siamo molto lontani dal fatto che questa curva stia planando in termini bassi, quindi vuol dire che in giro continua a girare. Questi sono i casi attivi, poi certificati. Figuriamoci tutti quelli che non sanno di essere attivi e che girano tranquillamente. Allora, la ringrazio, Achille Variati. Non abbiamo più tempo, l'avrei voluto chiedere come si distingue un amico vero, però insomma non abbiamo tempo. Grazie, Achille Variati, sottosegretario all'interno, e Marianna Aprile per essere stata con noi. Marianna, alla prossima. GR24 e poi la rassegna stampa.